Daniele non ci va più, Daniele se c'era gli altri anni andava sempre, capito? Daniele quest'anno è andato a Palermo, a quella di Palermo è andato Daniele, capito? Daniele aveva fatto un po' di casino, non ce lo vogliono più, ma Daniele non lo vogliono più lì a... non lo vogliono lì alla Mezza di Borgo Marina, non lo vogliono più, già lui questo è il terzo anno che lui non ci fa più, che non lo vogliono, capite la festa. Infatti cosa ha detto, se tu guardi quando si è preso contro Bastiano Chiesa, ha detto no, a te non ti voglio vedere perché ti assomiglia a Pippo Apollo, perché Pippo Apollo è il carissimo amico nostro, quello che organizza lì, capito? Io con Peppe Caffettiera, Tommaso Giva e cosa siamo andati, Giovanni non originale, eravamo ospiti a casa sua noi. Cioè, ci ha voluto a tutti i costi, l'anno scorso non avevamo voluto disturbare, ma ci ha voluto a casa sua, noi eravamo, se guardate le foto, siamo a casa di Pippo Apollo lì a Novara, siamo andati a casa di Pippo, abbiamo pranzato a casa sua, c'era la piscina, ci abbiamo fatto il bagno, c'erano solo le fotografie e anche in cosa del computer, li puoi vedere, ci abbiamo fatto il bagno in piscina, tutto quanto, e poi da casa sua siamo andati, e c'era lì il giorno, c'era Peppe Affaccino, quello che sentiva quando è Ghira Martini Forte che arrivava, che ti ho detto che c'ha due di quelli fatti a portafoglio in pullman, quello che sentivi Peppe Affaccino che non faceva parlare a nessuno, sentivi quello che motorava quando è Martini. Adesso come avevi conosciuto Peppe Affaccino, già mi ha sentito un po' ultimo perché mi ha detto che c'era un sacco di gente che stava parlando e quindi io rimanevo sotto, ma poi quando ho iniziato a pompare già mi ha sentito. Stavano arrivando qua una fucilata, era 9.30 fisso, non si staccava lo smitter, sempre 9.30, sempre camminando, sempre andando, però il segnale sempre fisso a 9.30 era. E lui c'è il pullman suo, no? Lui porta la gente all'Urdes, capito, fa quelle gite turistiche, porta gli anziani all'Urdes, fa quelle gite lì, capito, Peppe Affaccino. Guarda, se tu quando lo conosci di persona, quella lì è siciliano, è una persona, guarda, di una gentilezza, di una cosa incredibile questo Peppe Affaccino, Lello Solitario. Quando senti quel Vito Cassa, sono Vito Cassa, guarda, quando ogni anno è stato sempre vicino a noi, parla una persona, un'altra persona seria e in gamba, questo Vito Cassa, poi c'è Paolo International, un altro signore, lo chiamano lì generale Paduglia, Moature Grosso, diciamo che la verità è che noi quando siamo andati lì eravamo la paccata nostra erano siciliani, noi eravamo sempre collegati, non so perché, forse siamo due isole, diciamo perché siamo due isole, non lo so, noi legavamo con i siciliani, la paccata non ci si arrivava, era sempre in mezzo ai siciliani eravamo, non so per quale motivo, e sono quelli più soccivoli, più coso, capito, Claudio? Avevo sentito il capo del Roggio, effettivamente sì, basta guardare a Tommaso che è di origine siciliana, poi se li sai prendere, se vai in negativo siciliano è un aino, però se ci vai d'accordo sono persone molto ospitali e persone a modo, capito, Gigi? Vabbè, vedremo di organizzare allora per luglio del prossimo anno e fare questo sacrificio, vai, che poi tanto sacrificio è un piacere andare a divertirsi così con gli amici della radio. Va bene, va bene. Allora cosa dici? Ci senti a Porto Torres o no? Non lo so, Claudio, vedo un po', dai, vedo cosa decido dopo. Vedo un po', Tommaso, l'amico più amico che ho io, lui è siciliano, però c'è da tanti anni qua in Sardegna, si è sposato qua in Sardegna, ma è una persona che io, te l'ho detto, non so se te l'ho detto, lo conosco, lui stava iniziando a guidare quando è arrivato qua, in Sardegna qua, mi sembra era 87, quando lui è iniziato a guidare, 87 in Ferriera. E da lì abbiamo fatto un'amicizia con Tommaso in tanti anni che io lo conosco, dall'87, quando ci crociamo in camion, ci parliamo, ma non ho mai sentito bisticciare con nessuno, perché è una persona, stavo scherzo, è molto educato nel modo di parlare. Dico, guarda, con Tommaso non abbiamo avuto mai a dire un cosa, dall'87, capito, siamo stati sempre legati, sempre appiattati con Tommaso, chissà perché, non lo so, però è perché è una persona squisita, è siciliano, però vive da tanti anni qua in Sardegna, però è una persona, dico che Tommaso Civa è una persona squisita, ma diciamo di una, troppo in gamba Tommaso. Cioè, ho il telefono, stai tutta la sera con i letti. Oh, mio, no, che ho mai trovato sto dicendo, no? Lasciamo perdere il raduno, però mi sa che anche detto Giovanni, se c'è la zona nostra, Valedoria, lì e cosa, dice mangiamo bene, così, cosa, se c'è il conosco, io ci fa dei trattamenti. E questo lo possiamo fare noi, tra noi questi di qua, questi, questo gruppo di amici nostri, compreso Benito, lo possiamo organizzare un sabato, una cena, perché siamo vicino, hai capito? Se non è tanto, ce lo possiamo fare lì. Non so, possiamo decidercela e farcela, il gruppo che eravamo lì più o meno, capito, quelli più stretti, vediamo se la possiamo anche fare. Ehi, positivo, guarda, stavo parlando con Costanzo lo straniero, proprio l'altro giorno al computer, qui siamo usciti anche in radio, ho detto non facciamo passare troppo tempo, almeno noi così a vedere ci ha fatto due risate, due chiacchiere, anche prima di fare arrosto. Capito, perché poi si riempie lì con la zona, è un casino. Tu mettiti d'accordo già con Giovannino, io non ho problemi, ho Gigi. Credo che neanche gli altri ne abbiano, dai, quelli del nostro gruppo, capito? E prima di fare agosto ce la facciamo così una battutina serale, vai, un sabato sera, ce ne andiamo a Valedoria, nella zona di Giovannino. Ce ne siamo lì, insomma, facciamo una cena, qualcosa di diverso, serviti e reveriti, capito? Ma mi stanno facendo notare Mario Terremoto l'altro giorno che, ma non so se te ne sei accorto, ma no, io non ho visto verdura assieme alla carne, effettivamente è vero, verdura non ce ne ha portato assieme alla carne. Io me ne sono ricordato dopo, e dentro guardavamo il menù, c'era scritto anche il testimonio per bagnarsi la verdura, tre cose, c'era la verdura e fruttami, c'era la verdura e il testimonio, e che non è arrivata quella lì, o è perché ci siamo andati a potere al tavolo, che cavolo, però con la carne non c'era la verdura, è vero, hai ragione, mi sono accorto dopo però di questa cosa, nel coso ce l'avevo io nel foglio, era quello da Pepe Caffettiere, ce l'avevo segnato nel foglio il menù, hai capito, però mi stava facendo notare un'altra cosa anche Andrea quello di Monti, Andrea Brizzi, cosiddetto corde d'acciaio, e dice anche papà qui, abbiamo uno 35, ma dice ma c'è 40, c'è però almeno anche altra gente, ho detto, anche un gelatino, una cosa, dice, non c'era la frutta, dice, almeno dice, anche un gelato alla fine, una coppa di gelato, dice, vabbè, ma non siamo lì, dice, se vuole paghiamo 5 euro in più, ma almeno ci metta anche, che sia completa anche una coppa di gelato, capito? Positivo, dice, no, me l'ha detto Mario Terremoto, eravamo qua sul 45, vabbè, la settimana scorsa, stavamo parlando appunto di questo nostro evento, e io ho detto il mio parere, mi ha chiesto ma dove è andata quella, ma per me Mario tutto ok, siamo stati bene, il posto è bello, siamo divertiti, bello arieggiato, senza nessun problema, e poi lui mi ha detto ma non ti sei accorto di niente, ho detto no, me l'ha spiegato, ha detto ma guarda che quando è uscita la carne non c'era verdura per accompagnarla, e alla fine poi vabbè ci ha offerto il caffè, la matta caffè con due dolcetti, però come hai detto tu mi mancava lo gelato, la frutta, queste cose così sono piccolette, però dice ci stava, capito, ci stava, non era completo al massimo, tutto bene ma mancava questa cosettina così. Sì, positivo Claudio, positivo. No, il gelato mi pare non c'era, invece nel coso c'era, sì, c'era la verdura col testimonio, pure c'era segnato, la verdura col testimonio, se tu doveva bagnare la verdura del testimonio, c'era segnato, quella c'era, però, poi sai Claudio, tu glielo stai abbonando 20 passi, 20 che non sono venuti, ce l'hai abbonato e non ci ha fatto pagare, e ci ha detto queste cose, dice, questa volta ci ho rimesso. Però dice, sperando che mi faccia una buona pubblicità, e il prossimo anno la faccio nuovamente qua, dice, va bene, per quest'anno va bene così, dai, questi 20 non voglio, dice, che mi siete niente in tasca, quella, se non ci abbiamo guadagnato nulla, siamo usciti giusti, e famiglie, sperando che si faccia una buona pubblicità, che il prossimo anno ritornate qua. Però noi il prossimo anno aggiungiamo, facciamo aggiungere il gelato, queste cose le preghi. Sono andato io insieme a Pinocchetto, ho contrattato, ho fatto col minuto, l'ho fatto io insieme a Pinocchetto, però il prossimo anno si può organizzare. Ma lì mi ha detto, se volete cambiare il menù qualche altra cosa, volete voi, me lo dite e lo cambiamo nel menù, capito? Io più o meno ho preso quel menù lì, mi ha fatto queste lì, quello l'ho preso con le regole, capito? Però possiamo fare quello che vogliamo, non possiamo, possiamo aggiungere qualcosa, qualche altra cosa, possiamo dire, ma fa culo, non sono 5 euro, vado a mantenere, fermo chilometri, capita una volta all'anno, ma faccio anche un gelatino, una coppa di gelato alla fine, mettici la frutta e mettici anche la verdura, che c'era segnata la frutta e la verdura, c'era segnata comunque, c'era segnata. Ce l'ho segnata, però l'ho tolta, e la gente, sai, è rimasta, era molto attenta, era molto attenta, tutto era buono, Gigi, era tutto di lusso e non c'è nessun problema, sia la carne, poi l'accoppiamento che ha fatto con poi il pesce, ce l'hai visto, quelle latte miste, c'erano latte, sai, fagilli, gamberi, a tutto andare, calamari e così via. Ci stava anche bene perché c'è gente che non ha mangiato la carne, ha mangiato il pesce, tutti gli assaggini erano la perfezione lo stesso, quindi va bene così, non ci sono problemi. Mancava questo accorgimento proprio della verdura e della frutta, per il resto era una camomatta. Beh, poi il prossimo anno decideremo cosa fare, meno si cambia e vediamo un pochino, non ci sono problemi. Buone Pirillo, va bene quello che stiamo dicendo, cambio. Capo Roche, va bene, ci hanno saputo. Ho capito, avete parlato assieme a Salvatore, cosa hai detto? È uno che sta sempre brincando, mi sono dimenticato da prima. Fallo entrare, c'è uno che sta sempre chiedendo prego, non lo facciamo entrare. Fallo entrare, Claudio, è un attimo, questo qui che sta brincando. Io c'ho QRM a zero, non ho sentito niente, sto molto attento, infatti lascio sempre in bianco. Quindi mi scuso se non ho ascoltato, avanti a break, buonasera. Ben ascoltati sempre, Antonio Grode che è sulla litoranea di Brattamona, come mi ascolti qua? Va bene Antonio, tu scusami ma non ti avevo sentito, tu l'ho lasciato un attimo di bianco, beh Gigino è più vicino a te quindi ti ha registrato. Il segnale oscilla con QSB da 5 a 7 a 8, quindi ti posso dire che con l'antenna sta andando perfettamente bene, con la speranza che tu ascolti Sparviero qua dalla città di Sassari. Sta prendendo Arezzi, là, è arrivata la bomba qua. Positivo il Caparoggio, Antonio Volpe, anche tu ti ascolto magnificamente bene, non ci sono problemi. Colpa di Gigino, mi ha detto mi devi promettere che devi riattivare l'area 48 e modulare con noi nel canale 45, allora così abbiamo fatto perché Gigino è mio padrino e quindi devo fare quello che mi dice lui, capito mi hai? Vai Gigino Volca. È positivo, non è che devi fare quello che dico io, per carità, grazie, Claudio, no, mi ha fatto piacere che tu sei venuto, a me mi ha fatto molto, guarda, io ci tenevo che tu venivi a questa cosa, ci tenevo molto, Claudio, ma poi sapevo che tu non mi dicevi di no, io lo sapevo, di tu a me di no non me lo dicevi, assolutamente, che sapevi che ti saresti divertito, che sarebbe stata una grande cosa. E niente, lo rifacciamo. Antonio Grode, stavamo così parlando così, ma abbiamo intenzione di farci, ho detto, in agosto, siamo in ferie, cosa? Un'altra cena ce la facciamo qua vicino. Oh, Claudia, c'è una cosa, Io c'ho un carissimo amico, che sicuramente tu lo conosci. Io Danilo, Danilo, non so se lo siamo tanto amici con Danilo, e lui è lo chef che è lì da permesso, lui mi ha detto, se voi venite, me lo dite, io vi faccio trovare tutta roba fresca, base di come abbiamo fatto lì, 40, e vi faccio mangiare tutta roba fresca, che d'isolo, prosciutto di riso, tutto di qualità, cucino io per voi, che lo chef è lui, dice ti faccio una bella sardo, cena quello che volete, vendendo ci fa fare lo sconto, vendendo ci fa, dice vi cucino io e ve lo faccio abbondante, vi faccio mangiare, se vogliamo fare qualcosa da Ernesto, prima è lui che fa un bel perché il cuoco è lui, il mio chef è lui, capito? Non è il titolare ma lui è lo chef e ci cucina lui per noi. Ah, vedi, lì sarebbe una cosa bella perché siamo vicini, non abbiamo problemi, le mangiamo in terra nostra. Lì quando volete tu già parlami con Giovannino senza andare a lungo, però, perché la prossima settimana già siamo ai primi di agosto. Capito, quindi senza andare molto lontano, poi ci ho parlato con Claudio, adesso spostiamo la voce ai nostri, alla nostra greffa, lo dice Costanzo, Massimo, oppure sta già ascoltando, per la greffa nostra però, capisci a me, Gigino, non ti allargare con altre persone, perché l'elenco lo conosci, persona, noi siamo una decina, fa più che bene, mangiamo, beviamo, ci divertiamo e non esageramenti, senza altri inviti particolari perché sennò non va bene, Gigi. Meno quelli che noi siamo partiti da qua e che siamo andati lì, capito Claudio? Che siamo andati lì alla cosa a cuore, siamo partiti da Zanzi e tutta la greffa, più o meno quelli lì. Esatto, esatto, quella greffa lì. Antonio già vado a prenderlo io, l'ho fatto un'altra volta, ci divertiamo e non stiamo lì a dire altre cose che non ci interessano, capito? Con Forchetto già me lo mangio io, vado a prenderlo io e non ci sono problemi che abitiamo vicino. Lì, Gigi, non ti potevo venire di nuovo e l'ho fatto con grande, veramente voglia di stare con voi perché ero da tanto che non uscivo e mi divertivo così. Già l'hai visto con che macchina sono venuto e praticamente io sono uscito alle 10, alle 10 ero a Sassari dalle 6 del mattino. E mi sono cambiato velocemente, sono andato a prendere Antonio e siamo partiti. Intanto tu mi hai toccato alle 11, avete appuntamento tutti a Giava e qui mi hai detto già ce la facciamo Anto. E ci siamo trovati tutti lì, capito? L'ho fatto veramente con grande voglia di stare in compagnia, quindi no, non ci stanno problemi e continuerò a farlo sia quando ci siete voi, perché ci sono persone che conosco da tanto tempo e che sono persone veramente in gamba. Poi io non ho più niente che fare con cose che non vi riguardano e quindi ho deciso di ritirarmi totalmente e stare con le persone che possono stare al mio fianco, gli altri rimangono di spalle, non hanno fatto nulla. Ma io ho invitato anche a Michele Polverone, mi ha detto Michele, no, dice lui, dice queste cose ho già fatto in passato e non le faccio più. Ogni volta che sono andato, sto caso di farrami, riami e cose, no? Dice quando voglio fare vado con gli amici miei, vado, faccio un pranzo, una cena, dice io di cose non ne faccio più, qua dice io da Santa sono andato, abbiamo organizzato, ecco, siamo usciti sempre a farrati, siamo sempre a farrati, riate e cose, no. Gli ho detto che c'eri anche tu, no, assolutamente, ha detto no, ho fatto già in passato e non ne faccio più adesso. Lo so, Gigi, non ha tutti i turni perché Michele è stato sempre il promotore, lui Giovanni Camposanto e Mario Volpontale, e poi alla fine c'era solo in quegli anni, c'era molta Mobetta e non c'era il Tirolo. sono appeli. Appeli, addirotti. Guarda, con una cottura ce la facevamo anche a camminare. Fortunatamente è passato un altro colossale massacro e ci siamo scelti con lui. Perché c'era stato proprio un litigio tra me, lui, Michele, un casino, era successo un casino aereo. E quindi giustamente a distanza di tanti anni, sono passati 20 anni, è chiaro che i ricordi sono rimasti e per cui ero sicuro che non ci veniva Michele, ero sicurissimo al 100%. Ma non mi ha detto niente, mi ha mandato le mail per la riunione dell'anima, non ci sono andato. Non ci sono andato, io quello che dico faccio e anche se qualcuno di loro mi sta ascoltando, sappiano io ho puntato i piedi e continuerò a puntarli fino a quando le cose non saranno fatte come devono essere fatte. Tutto qua. E quindi sono qua, rimango qua e mi diverto qua assieme ad altre persone. Tutto qui. Dico una cosa, Claudio, ma lo sai perché è andata bene questa qua adesso, questa abbiamo fatto? Ma hai notato una cosa, nessuno parlava di apparati, nessuno parlava di radio, nessuno parlava di baracchini, te ne sei accorto? Eravamo lì, parlavamo di tutte altre cose, ci divertivamo, ma hai notato questo? Ah, l'ho notato, sì, l'ho notato. Ti posso dire che va bene, perché quando sei così in tanti, 70, 80 persone, 100 persone, che quello guarda quello, quello guarda quell'altro, e niente, allora le cose iniziano a essere un pulito, Gigi, e le cose sono cambiate, perché se hai visto, caraffe di vino ce n'erano poche, abbiamo bevuto, io penso, una pedana di acqua tra quella normale e gasata, perché non si può, capito? Siamo tutti lavoratori, lavoriamo tutti con la patente e quindi non si può più giocare come prima. Mentre prima era diverso, il vino era fiumi e le cose erano diverse. Perciò, per quello che sto dicendo, oggi si può fare e quando si fa sicuramente viene meglio di come è venuto adesso, sicuramente. Sì, positivo, Claudio, positivo. Adesso se facciamo questo, però la facciamo, io vado in ferie dopo Ferragosto. Dopo il sì, ci crediamo un po' lì che siamo in cosa, siamo più, ce la facciamo. Però non per fatto di piri, perché se la fosse, andiamo come amici, siamo lì, noi andiamo come amici, capito? Come grandi amici lì al coso, non per parlare di baracchino, come grandi amici, per farci una serata, una cena assieme in amicizia, capito Claudio? Non fa, come abbiamo fatto lì? Non c'è problema, no, ho preso Claudio, cosa ti voglio dire? No, io voglio baracchino, no, come abbiamo fatto? Tranquilli, ci siamo dimenticati noi dei baracchini lì. Se tu hai presente, se sei accorto, ci siamo dimenticati che noi eravamo abbiamo frutto di altre cose, ci siamo divertiti di bene. Così che è bello, così. E così quando ci facciamo questo pranzo qua, o cena, meglio una cena ci facciamo una notte qua. Vediamo un po' se la facciamo da presa, adesso parlo con Danilo me l'ha già detto, non vogliamo fare, lui ci fa trovare la roba per la fresca e ci cucina lui per noi, perché lui può, me lo dite voi in tempo, io vi faccio, tanto è tutto roba di qualità, ha detto Danilo, i prosciutti, i salumi vengono tutti da l'isola, prende solo roba costosa, e c'è anche costosa, di qualità, non è prese cosa di prosciutti di basso costo, queste cose così, ma detto, più o meno la cifra è quella lì, 35-40 euro, il meno fatto con la grigliata di pesce e via dicendo, questo terra male, dai. Lei è positivo, te l'ho detto, Gigi, tu inizi a già parlare con Giovannino, con Costanzo, con chi devi parlarne, con Mario, con quelli che vuoi, capito? Noi quando siamo con la graffetta nostra eravamo seduti vicino, non c'è nessun problema, con Vittorio, tutta quella gente che era vicina a noi, con la graffetta nostra, tu lo dici a loro, io problemi non ne ho, dove ci sei tu, stai tranquillo, dove ci sono sempre io, non c'è nessun problema, perché bloccata, una cosa fatta bene. Ma i garage oramai mi sono lasciati alle spalle, quindi voglio riniziare alla grande, vai, anche se ho deciso di iniziare un po' troppo tardi, però potevo benissimo già partecipare da prima a queste cose con te, però adesso va bene così. Buone Bilo, stavi chiamando, cosa c'è? Gli altri Vincenzo, faccio piano.